Raindrops on roses and whiskers and kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Tre civette sul comò, rubrica di varie cose sulle donne. Questa sera, quadri di piante vide, Gertrude Jekyll. Strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera. Parleremo questa sera di Gertrude Jekyll, la donna che ha più profondamente influenzato l'arte inglese del giardinaggio, di cui fu pioniera e maestra. Occorre naturalmente inserirne la storia sullo sfondo della gloriosa tradizione dell'arte del giardinaggio inglese, in cui le donne giocano un ruolo fondamentale. Se tracciamo infatti a grandissime linee la storia del giardino europeo, possiamo cogliere il passaggio dalla tradizione degli orti romani, verdi luoghi di incontro, piacere e bellezza assimilati agli ozia, cioè all'attività intellettuale e filosofica, al giardino medievale che, attraverso la tradizione araba, è al tempo stesso luogo d'amore, microcosmo simbolico e luogo di produzione privilegiata di piante ed erbe medicinali. Il Rinascimento italiano informa poi della sua ricerca estetica e filosofica anche il giardino, inteso come luogo di rappresentazione simbolica espressa attraverso la complessa geometria di aiuole rigorosamente disegnate e spartite da siepi intagliate in mille forme, intorno a fontane e giochi d'acqua, spesso di grande valenza artistica e decorativa, oltre che naturalistica. Con questo forte portato ideale, giardinieri e architetti italiani esportano ovunque in Europa, con lo stile inconfondibile delle arti italiane, anche il modello del giardino all'italiana. È il caso dei giardini del Luxembourg, voluti a Parigi da Maria de' Medici sull'esempio del giardino di Boboli della sua infanzia, o dei giardini russi progettati da giardinieri italiani in armonia con le architetture create dagli architetti italiani, chiamati, ad esempio, da Caterina la Grande, a dare nuovo lustro e splendore a San Pietroburgo. In Gran Bretagna, l'elemento chiave è Elisabetta I Tudor, Astrea. Così veniva celebrata la regina da poeti, letterati e artisti di corte, e al centro di un complesso apparato simbolico di rappresentazione del potere, che trova espressione nelle arti di ogni genere, a partire dai celebri ritratti allegorici a lei dedicati, ma che trova anche espressione in una magnifica serie di giardini creati in suo onore, da Kenilworth a Pimms a Nonsuch, che in maniera sempre più sottile e complessa alludono alle doti intellettuali, dinastiche, politiche e filosofiche della Regina Vergine, attraverso l'utilizzazione di piante fortemente simboliche come i lauri, le rose, i garofani, le violette, e poi statue allegoriche, aiuole figurate e fontane. secolo dopo la regina Elisabetta, è ancora una donna, Augusta, principessa del Galles, la responsabile dell'apertura del giardino all'inglese verso forme nuove, meno formali e più pittoriche, ispirate soprattutto all'Oriente e alla cineseria allora, siamo nel XVIII secolo, tanto di moda in Europa. Augusta di Galles incarica l'architetto William Chambers di tradurre in un giardino il suo recente viaggio in Cina. Il luogo prescelto per la creazione di un nuovo fantastico paesaggio anglo-cinese, bizzarro e insolito, è il giardino di Kew, i Kew Gardens di tanti scritti di Virginia Woolf anche, e attualmente uno dei luoghi simbolo della grande arte inglese del giardinaggio. La pagoda, realizzata da Chambers per i Kew Gardens, come alcuni dei suoi bizzarri padiglioni stile neoclassico gotico arabeggiante, sono all'origine della diffusione dei giardini orientali in Europa ed è una delle radici estetiche e concettuali del giardino all'inglese, romantico, sperimentale, inteso come creazione di paesaggi estetizzanti e fantastici piuttosto che come allestimento di complesse geometrie e partiture in aiuole. Il XIX secolo inglese è caratterizzato dall'esplosione generazionale, diremmo, di un interesse per le piante quasi ossessivo. Botanici, illustratori, giardinieri, paesaggisti, centinaia di esperti che esplorano, ricercano, studiano, ibridano, sperimentano, scrivono, soprattutto creano giardini. Tra questi esperti di varie discipline, le donne costituiscono un nucleo importante e influente. È probabile che i fiori, le piante, i giardini siano abbastanza vicini all'ideale vittoriano della donna angelo del focolare, con giardino, da non rendere sospetta e disdicevole la notevole attività femminile nel campo. L'illustrazione naturalistica e botanica, ad esempio, è uno dei pochi campi artistici in cui le donne siano lasciate libere di professionalizzarsi, probabilmente perché l'elemento vegetale esclude una volta per tutte l'annosa questione della rappresentazione del nudo e perché dipingere fiori non fa sospettare l'eventuale esistenza di occulti, inquietanti mondi interiori. Gertrude Jekyll nasce nel 1843 a Londra, quinta di 7 figli di una famiglia di funzionari e fedeli servitori dello Stato. Le frequentazioni familiari sono di un certo livello culturale oltre che sociale ed è al nome della famiglia Jekyll che un amico di suo fratello Walter, Robert Louis Stevenson, si ispirerà molti anni dopo per uno dei nomi dell'inquietante protagonista de Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Thank you. Dopo alcuni anni, la famiglia si trasferisce nel Surrey, a Bramley House, in cui Gertrude segue l'iter formativo delle fanciulle di buona famiglia dell'epoca e poi decide di dedicarsi alla pittura. La sua vocazione giardiniera si svilupperà infatti, come vedremo, piuttosto tardi nella sua vita. Nel 1861, all'età di 18 anni, comincia a frequentare la South Kensington School of Art e passa lunghe ore studiando e copiando opere d'arte di antichi e moderni maestri nelle sale della National Gallery. È attirata soprattutto dalle atmosfere corrusche e folgoranti di William Turner. Frequenta diversi artisti della cerchia amicale familiare, come il francese Hercule Brabazon, di cui ammira gli acquerelli di paesaggi. Come ogni rampollo di buona famiglia inglese, Gertrude Jekyll completa la sua formazione viaggiando in Europa, dove ha modo di scoprire, ad esempio in Francia, la scuola di Barbizon e soprattutto gli impressionisti, da cui rimane come folgorata. Dal 1863 viaggia soprattutto nel bacino del Mediterraneo e in Oriente e rimane avvinta dalla luce del Mediterraneo, dai suoi profumi, colori e sapori, specie delle piante aromatiche. Nel 1869 conosce William Morris e successivamente John Ruskin. I due sono i protagonisti, l'anima, il corpo e la forza creatrice ed intellettuale del movimento artistico delle Arts and Craft, così come successivamente saranno all'origine del movimento preraffaellita. Le Arts and Crafts sono l'espressione concreta, materiale e commerciale delle teorie ruskiniane sulle arti applicate, incentrate sull'importanza del rifiutare la volgarità della produzione industriale a favore di un artigianato di alto livello qualitativo con un forte sostrato etico ed ideale. Quando Gertrude comincia a lavorare come designer nei laboratori artigianali fondati da Morris, però, ha già cominciato a soffrire di forti disturbi alla vista che di fatto le impediscono di puntare ancora su una carriera artistica pura. Cerca quindi nuove vie di applicazione ai suoi studi, sperimenta la fotografia, poi si avvicina al giardinaggio vedendo nella natura forme estetiche già definite su cui lavorare in vista di una successiva rielaborazione in chiave artistica e culturale. La Jekyll dunque abbandona una carriera artistica impeditale dalla malattia e si volge al giardinaggio. Tonight. Nel 1875 compie il primo incontro importante della sua vita professionale. Conosce William Robinson, il giardiniere inglese che sull'onda delle arts and crafts si riavvicina alla tradizione agricola e giardiniera inglese, trovando nel cottage garden tipico dell'era Tudor, cioè nei piccoli giardini di campagna, l'ispirazione per composizioni paesaggistiche in cui una mescolanza di piante perenni e indigene cerca di seguire con grazia il succedersi delle stagioni. L'azione di Robinson era polemicamente diretta contro l'architetto Sir Reginald Bloomfield, strequo propagandista presso gli aristocratici di ciò che definiva raffinatezza e riservo del giardino formale del XVII secolo, rigidamente incentrato su giochi di aiuole, parterre, fontane e viali geometrici. Nel 1876 Gertrude si trasferisce a Mansfield House, ancora nel Surrey, dove comincia a sperimentare sulle teorie di Robinson. Poi nel 1883 acquista la vicina proprietà di Mansfield Wood. Il giardino di Mansfield Wood sarà per tutta la sua rimanente vita e carriera di giardiniera paesaggista luogo di sperimentazione, di riflessione, rifugio prediletto e grande manifesto della sua poetica, che si basa essenzialmente su alcune idee portanti che la Jekyll metterà in attuazione lavorando a più di 400 giardini e pubblicando articoli, saggi e volumi continuamente ristampati, amati e studiati da specialisti e semplici appassionati ancora ai nostri giorni. Fu attraverso i fatti, ma anche le parole, quindi, che Jekyll ispirò una generazione nuova di creatori di giardino, tra l'altro essendo sempre aperta a domande e richieste dei suoi lettori e ammiratori, con grande generosità e passione. Per quel che riguarda il principio base dello stile Jekyll, il giardiniere è un artista che utilizza come colori della propria tavolozza quelli delle fioriture. Leggo le sue parole, tratte dagli articoli da lei regolarmente pubblicati sulla rivista The Garden. Occorre lavorare producendo un effetto pittorico esteticamente gradevole, sia per mezzo di armonie che di contrasti, così che le diverse sezioni del giardino assumono una notevole valenza pittorica, divenendo veri e propri dipinti di naturale bellezza. Visione letteralmente artistica del giardino, quindi. Inoltre, grande attenzione agli elementi d'arredo, specie dal punto di vista dei colori. Annota infatti: vi è un aspetto spesso trascurato nei giardini che meriterebbe la giusta attenzione, e precisamente il colore usato per verniciare strutture e accessori, serre, porte, cancelli, staccionate, vasi e qualsiasi altro elemento visibile. Armonizzare i colori degli elementi d'arredo alle note cromatiche dominanti del giardino, per affinità o per contrasto. Un altro elemento dell'estetica di Gertrude Jekyll che il giardinaggio internazionale ha riscoperto e finalmente compreso nel suo reale valore estetico solamente negli ultimi decenni. Siete in ascolto di Tre Civette sul Comò, rubrica di varie cose sulle donne. La puntata di questa serata è dedicata alla grande giardiniera e paesaggista Gertrude Jekyll. Torniamo a Mosterwood, la proprietà da lei acquistata nel 1883. Si tratta inizialmente di una brughiera delimitata da un bosco di conifere, una situazione di partenza a dir poco scoraggiante. Ma Gertrude vi si getta con caratteristica passione e mentre cura gli imponenti lavori di allestimento del terreno, una proprietà di circa 15 acri, affida al giovane architetto Edwin Lutyens la costruzione della casa di due piccoli padiglioni da inserire nella proprietà. Siamo ormai nel 1895. Edwin Lutyens è un giovane architetto di 26 anni più giovane della giardiniera. L'intesa intellettuale e artistica tra i due è però folgorante. Lo stile di Lutyens, ancora una volta ispirato agli insegnamenti delle Arts and Crafts, è un piacevole ed elegante adattamento dei tradizionali stili architettonici inglesi alle necessità della vita moderna. L'alta qualità tecnica ed estetica dei suoi lavori viene incontro alle idee artistiche di Gertrude. Mentre i due lavorano fianco a fianco ai giardini e alla casa, cominciano anche a collaborare esternamente al progetto di Mosterwood. Nel 1898 hanno già creato la loro prima opera a quattro mani, la proprietà di Crooksbury, sempre nel Surrey, caratterizzata da una ricerca estetica di raffinata qualità. Lo stile Jekyll Lutyens diventa poco alla volta lo stile inglese per eccellenza, equilibrio perfetto di tradizione e informalismo, con ampie terrazze balaustrate dalla serena maestosità, piacevolmente euforizzate da esplosioni di colori e forme vegetali vivaci, movimentate, esuberanti. Portavoce del nuovo gusto è Country Life, rivista culto degli giardinieri inglesi, posseduta e diretta all'epoca da un amico di Lutyens, Edward Hudson. La fine del XIX secolo vede anche la pubblicazione di Home and Garden, il primo dei 14 volumi pubblicati in vita dalla Jekyll e il primo soprattutto di un'incredibile serie di autentici bestseller. Un anno dopo, nel dicembre 1900, Country Life pubblica un articolo su Mosterwood e la sua proprietaria. Parte dell'articolo è una lunga citazione dalle sue parole. La regola per ottenere tali effetti è di enunciazione semplice ma di difficile esecuzione. Raggruppata audacemente, con un pensiero a tutte le stagioni e a tutti i colori, formatevi nella mente molti quadri successivi, quadri che siano armoniosi in se stessi e in armonia l'uno con l'altro, e poi realizzateli. Questo è l'inizio e la fine di tutta la faccenda, ma è anche dove entra in campo l'immaginazione dell'artista. Per il resto, le regole auree sono due e facili da rispettare. Non essere schiavi della pulizia e non tentare di far crescere piante che non amino il terreno del vostro giardino. Gertrude Jekyll sta qui descrivendo la sua innovazione più significativa, l'applicazione della teoria tonale dei colori a ondate informali di piante o, come dice lei stessa, la creazione di quadri con piante vive. Ella utilizza questo approccio con molti tipi diversi di piante per ottenere effetti diversi, ma è per le sue spettacolari bordure erbacee che è ricordata meglio. Per quanto la bordura erbacea non fosse una sua invenzione, a lei va il merito di averla elevata a quintessenza del giardino all'inglese. Svolta del XX secolo in Gran Bretagna, Jartoo Jekyll era nel luogo giusto, nel momento giusto e con le idee giuste. Nella decade precedente, i nuovi ricchi avevano fatto le loro fortune e ora volevano esibirle al mondo. Una nuova casa di campagna con giardino era il veicolo perfetto. Il tempo era perfetto per una forma nuova di giardino inglese cui contribuissero in parti eguali architetto e giardiniere. L'unione tra la giardiniera Gertrude Jekyll e l'architetto Edwin Lutyens risultò più grande della somma delle due metà. Gertrude Jekyll offriva una sicurezza di gusto che dava a Lutyens tutta la fiducia che gli occorreva per sperimentare. La struttura geometrica del giardino, con il piano terrazzato e i cambiamenti di livello, con le compartimentazioni e divisioni con muri e siepi di tasso, creavano una quinta per la casa. All'interno dei compartimenti, collegati da pergole, sentieri o gradinate, venivano collocati ornamenti raffinati come statue, fontane o panchine. Venivano usati elementi caratteristici come le canalette o la vasca delle ninfee, muri di pietra a secco, pratica da tennis o da croquet. Ma c'era poi la collocazione e scelta delle piante, che fossero bordure erbacee, roseti, aiuole geometriche o contenitori rialzati, la Jekyll li riempiva tutti in parate attentamente studiate, pianificate per colore e stagione, ricche ed esuberanti e al contempo ordinate. Si utilizzavano quindi una ricchezza di elementi, l'informalità della natura addomesticata del giardino che trapassa bosco, i giardini naturali, i giardini rocciosi, gli stagni, i giardini acquatici e i ruscelli, e tutti concorrevano a fornire un habitat per piante rustiche. Il successo fenomenale di questi vernacolari giardini arts and crafts era dovuto tanto al loro essere un fondale bello e alla moda per una società elegante, quanto al loro ruolo più effimero di luogo in grado di offrire, come si scrisse, pace e bellezza e anche felicità. L'impatto di Miss Gertrude Jekyll sulla progettazione dei giardini inglesi e poi internazionali fu enorme. Della sua vita privata si conosce molto poco, così come di eventuali ostacoli che potrebbe averle creato il suo essere una donna. Ma se occorre ancora sottolineare come il giardinaggio fosse un campo abbastanza aperto al femminile, è anche importante evidenziare un dato inoppugnabile. Gertrude Jekyll fu una professionista di enorme successo, autorevole, idolatrata, pluripremiata, imitata ancora oggi. Una figura di riferimento assolutamente essenziale per professionisti, cultori e semplici appassionati, le cui idee ritroviamo ad esempio nella creazione del celebre White Garden di Vita Sackville-West a Sissinghurst. Negli anni che vanno fino al 1914, Jekyll e Lutyens ottennero e portarono a termine 55 commissioni e fino alla sua morte nel 1932 ella produsse più di 400 progetti di giardino. Anche oggi una casa di Lutyens con un giardino di Jekyll raggiunge facilmente sul mercato immobiliare inglese cifre stellari. Dopo essere stato liquidato senza tante cerimonie come fuori moda negli anni 50 e 60, quando le piante perenni furono considerate passatiste, lo stile Jekyll ha vissuto un rinascimento. I suoi giardini sono attrazioni turistiche popolari e il restauro di un giardino Jekyll genera un grande interesse pubblico. I suoi libri, le prime edizioni dei suoi libri sono ormai pezzi da collezionisti e le nuove edizioni si continuano a vendere numerose a testimonianza della natura durevole del suo pensiero e del suo ethos. Certo sono passati i giorni in cui si voleva ricreare pedissequamente una bordura Jekyll, tuttavia i suoi scritti, così pieni di poesia e di pratica saggezza, continuano a incoraggiare, ispirare e a deprimere tanto i giardinieri neofiti che quelli più esperti. Più significativamente, nessun garden designer ha finora suggerito un modo nuovo di sistemare piante che si sia dimostrato più riuscito o popolare. Forse le ultime parole dovrebbero essere lasciate alla grande signora stessa che scrisse nel 1927. Se i modi di fare giardinaggio, che a me sono parsi più validi e dei quali ho cercato di dare qualche idea nei miei libri, sono stati di qualche utilità anche agli altri, è perché ogni rigo di quanto ho scritto è frutto di vero lavoro ed esperienza. Il mio interesse e la mia devozione per le belle arti è stata sempre fonte delle mie gioie più profonde, insieme all'amore per la natura, per le sue bellezze e meraviglie. Bene, era questa l'ultima puntata della prima stagione di Tre civette sul Comò. Abbiamo ascoltato brani di Lorina McKennitt, Rija, The Machine in the Garden, nonché tre composizioni per piano e voce di Amy Beach.